stamattina c'era un presidio, insomma, insieme ai lavoratori chiamato da noi, dal sindacato di Elecobas, un presidio riguardante, insomma, lo stato di agitazione sindacale che va avanti da circa una decina di giorni. Era il quinto giorno di sciopero. Il presidio di stamattina avveniva in seguito all'incontro avvenuto ieri in prefettura con la cooperativa MD, che gestisce la manodopera dentro il magazzino Camila, che a sua volta rifornisce la Coop Alleanza 3.0, insomma, questo strano sistema di appalti e subappalti. Nulla, il presidio è stato caricato più volte dalla polizia, e nonostante questo la determinazione dei lavoratori, degli attivisti e delle attiviste ha permesso comunque di bloccare i camion per qualche ora. In tutto questo un lavoratore dopo la prima carica è stato ricoverato all'ospedale maggiore, e dopo la seconda carica un'attivista è stata ferita, insomma, con un colpo alla testa da cui scendeva molto sangue. Ricordiamo le ragioni di questi scioperi. Noi siamo arrivati come ADL Cobas in questo magazzino a maggio e abbiamo trovato una situazione praticamente di irregolarità totale, con condizioni quasi, si può dire, di schiavismo, persone che facevano anche 200-250 ore al mese, di cui molte non pagate, livelli di inquadramento contrattuale non corretti e contratti a tempo determinato che andavano anche oltre il limite di legge. Dopo, insomma, uno stato di agitazione durato parecchi giorni a maggio, anche lì con degli interventi della polizia, scioperi eccetera, siamo riusciti a ottenere la stabilizzazione per parecchi decine di lavoratori, che adesso chiedono che venga riconosciuto il corretto inquadramento contrattuale, che è il quinto livello per tutti i lavoratori che fanno picking come altri che abbiamo presenti in magazzino. Le rivendicazioni di oggi in particolare sono l'inquadramento contrattuale e anche il ritiro di un licenziamento, perché è stato licenziato un lavoratore iscritto alla DL Cobas durante uno sciopero del 15 ottobre. In seguito a questo sciopero è stato licenziato per un atto che avrebbe compiuto durante questo sciopero, e i lavoratori iscritti alla DL Cobas nei loro turni subiscono continue discriminazioni sia di orario sia di trattamento. Vi siete fatti un'idea del perché sia arrivata la polizia? Chi l'ha chiamata? Ma allora, sicuramente noi crediamo che Coop Alleanza 3.0 e Camila Italtrans, di cui ricordiamo è stato caricato il presidio dei lavoratori con sindacato USB in provincia di Bergamo, abbiano mandato la polizia, perché non si possono permettere di avere gli scaffali vuoti durante il periodo di Natale. Ieri ci è stato detto durante l'incontro in prefettura che dovevamo avere rispetto verso chi lavorava e chi non scioperava, perché era anche rispetto verso le nostre famiglie che avrebbero potuto fare la spesa tranquillamente. Quindi sull'altare del profitto, sull'altare del consumismo prima del le feste, Coop Alleanza 3.0 e Camila Italtrans hanno mandato la polizia stamattina. Ciò nonostante, però, la controparte non è disposta ad accettare le vostre richieste? Ma in questo momento la controparte no, si è detta disponibile ad accettare le nostre richieste solo previo al fatto che la produttività ritorni ai livelli di prima. Insomma, tradotto, loro vogliono che le persone tornino a lavorare come cavalli, come facevano prima, cito testuali parole dei rappresentanti di MD, e quindi loro vogliono che la produttività torni alta, che le persone tornino a lavorare come schiavi, e poi forse se ne parla del corretto inquadramento contrattuale. Quindi noi eravamo lì per chiedere il ritiro del licenziamento del nostro iscritto e l'applicazione della legge del contratto collettivo nazionale, l'applicazione della stessa legge che i poliziotti in divisa stamattina dicevano di voler difendere. Ecco, ora che ne sarà di questa mobilitazione? Allora, adesso in questo momento stiamo bloccando l'ingresso della Coop a Parma per denunciare il fatto che il committente ultimo è Coop Alleanza 3.0, quindi stiamo, insomma, rallentando e bloccando l'ingresso della Coop per denunciare questo atteggiamento di Coop, in cui, ricordiamo, siamo nell'ambito di una mobilitazione regionale. Settimana scorsa abbiamo scioperato insieme ai colleghi di Cesena, Forlì e Reggio Emilia per chiedere che Coop Alleanza 3.0 si relazioni con noi per riconoscere i diritti dei lavoratori, perché Coop Alleanza 3.0 è la stessa che nei suoi magazzini gestiti indirettamente da Italtrans e altre cooperative pratica di fatto dello schiavismo, però sui prodotti nei supermercati c'è scritto i prodotti sono lavorati senza sfruttamento del lavoro, quelli a marchio Coop. Quindi ora facciamo questo presidio davanti alla Coop con blocco e rallentamento dei clienti per denunciare questa situazione, ma lo stato di agitazione sindacale prosegue. Oggi pomeriggio ci sarà un'assemblea con i lavoratori e capiremo le prossime mosse. Finché non vengono rispettati e dati i minimi diritti, ovviamente lo stato di agitazione continua.